studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. E siamo qui tornati dopo questa settimana piena dove siamo stati in trasferta a Piazza Duomo a Termini Imerese. Ciao Andrea. Ciao Antonio e ciao Bummo. Ciao dietro. Bummo. Guarda lui come sente freddo, non ti sentiamo. Ciao, ciao. Ah, ora ti abbiamo sentito. Yeah. Guarda lui con il cappello, con il... cos'è? Un colbacco russo. No, non è un colbacco. Ma non è un colbacco, il colbacco è quello alto. Si trasforma. Sì, si trasforma in un colbacco missile che si infila tra le tue valvole. Comunque, come vedete, c'è ancora un'aria molto cazzeggiona da carnevale, perché anche se oggi è il giorno delle ceneri. Anche perché questo programma è serio, non c'è mai stato un'area cazzeggione. Mai. Intanto tu perché ti togli il cappello? Oggi lo devi tenere. No, perché di solito in radio si tengono le cuffie, io invece tengo il cappello. Ah, è vero, quindi tu riesci a sentirci, ci percepisci. È un cappello Bluetooth. Sì, Bluetooth. Allora, non sono i denti. No, perché è Bluetooth? Tutto. C'è una volta che si legge come scritto, tu dici tuff. Ma tuff è più bello. Ma tu ti tuffi ogni tanto. Ammare ti tuffi. Ma smettete di dire corbellerie. E a noi piace dire corbellerie. No, intanto diciamo, diamo i contatti. Diciamo anche che nella webcam per oggi dal lato dal lato acquario è interrotta, perché l'abbiamo usata nel nostro studio mobile, ma arriverà magari a metà puntata, immagino. Non c'è nessuno, quindi non ci vedrete in webcam, ma ci ascolterete in streaming su radiopanorama.info. Ma attenzione, ci annunciano che neanche lui è inquadrato, sì, quindi sì, oggi la webcam nessuno. Ok. Radiopanorama.info per ascoltarci in diretta. Sì, ascoltarci soltanto. Le prossime settimane, insomma, ci potete vedere, ma già da domani i programmi continueranno con la programmazione con la webcam, mentre potete scriverci sulla nostra pagina facebook.com/londainonda oppure Radio Panorama TI, che è la nostra pagina Facebook, Termini Imerese. Radio Panorama Termini Imerese, l'abbiamo mai data. È nuova. Poi sms al 380 76 90 204. O se volete farci sentire la vostra voce, potete anche telefonarci allo 091 888 5182. Poi cosa manca? Twitter.com/ondainonda, sì. Oppure hashtag ondainonda se volete commentare la puntata con noi su Twitter. Ma insomma abbiamo c'è iniziato. Il nostro amico Giuseppe oggi, il videtti. Sì, ci sono tutti, ma non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, bombo, clap, io lo cerchiamo, che va, chiamati! Ancora buon mercoledì delle ceneri a tutti, per chi si fosse collegato solo adesso. Saluto Stefania, la mia ragazza che ci sta ascoltando, e Brumma che si è tolto il cappello. Non ti sentiamo, però è sempre bello. Non mi sentite perché qua mi spengono i microfoni. Claudio mi dice che vorrebbe farmi qualcosa, però non possiamo dire dietro il vetro ci sono dei gestacci. E tra l'altro in contemporanea si vede la foto di Nicole Minetti, quindi tutto torna. Tutto torna. Come sempre. Tutto. E allora settimana spenta, non è accaduto praticamente niente. Non abbiamo nulla di cui parlare. Nulla. Ci siamo calma piatta. Infatti abbassi oggi un po' il sottofondo, è un po' troppo alto, grazie. Grazie. Io non sento bene, capito? Non so perché l'avevo immaginata, anche perché hai tolto il cappello Bluetooth. Sì. Vabbè. Sì, settimana di calma piatta, infatti ci siamo riuniti anche di notte. Non del silenzio. Oggi il silenzio. Sì, ci siamo riuniti di notte per due ore. Sì. Ci siamo riuniti di notte per trovare argomenti validi di cui parlare, perché è veramente difficile in questa settimana in cui c'è soltanto Festival di Sanremo, le dimissioni di Papa Ratzinger, sì, la par condicio, sì, e il carnevale. Finiamo anche il carnevale. Tutto. È finito il carnevale, però diciamo, praticamente noi prossima settimana non andremo in onda, sì, perché abbiamo troppa ciccia oggi. Ci sarà in realtà ancora il carnevale ambrosiano, no, di a Milano. Ah, vabbè, cioè, quello è vero, quello è vero. Te che sei ambrosiano? È perché ci sarà Ambrosoli. quello del carnevale Ambrosoli, quello del miele, il carnevale Albertini, il carnevale Maroni. Ma è un cretino, cioè. Ma perché? No, no, niente, lui si distrae e poi spara cazzate a raba. Da tutto insieme. I candidati alle elezioni della Regione Lombardia, quindi. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, siccome noi siamo un programma musicale, mi sembra doveroso, non so se voi vi unite, penso di sì, ricordare il figlio di Franco dei Ricchi e Poveri, sì, che purtroppo è scomparso a 23 anni e stasera infatti Ricchi e Poveri per solidarietà a uno dei loro tre componenti non suoneranno come previsto sul palco dell'Ariston in qualità di super ospiti, quindi ci stringiamo alla famiglia di Franco e a tutti i Ricchi e Poveri e noi andiamo avanti col programma perché penso che il miglior modo per ricordare qualcuno sia fare quello che si ama fare, giusto, esatto, Andrea? Esatto, io direi intanto di anticipare quello che avremo oggi nel corso del nostro programma, sì. Avremo un'intervista con i Leon e poi ovviamente Marco di Film Brutti, chiameremo alla fine di questo programma. Oggi è mercoledì delle oggi ceneri. È un mercoledì delle ceneri, lui ci ha annunciato già un bel film che non possiamo anticipare, no, via no, radio, ma su Facebook seguiteci per avere il titolo in anteprima, sì. facebook.com/londainonda e magari fanno i fighi con gli amici, esatto. Io già so quale film ti dice, ti dirà Marco, esatto. E qual è la cosa importante? Che in questa settimana si è dimesso il Papa e 16 anni fa, sì, diciamo, girò una canzone proprio a Sanremo, quindi tutto torna, presentata a Sanremo da Pittura Fresca, un gruppo veneziano reggae che spopolò, uscì dal contesto veneziano ma si inserì nel contesto nazionale con questa canzone di portare al successo, che era appunto Papa Nero, rifacendosi alla profezia, no, di Nostradamus, che si dice, e tra l'altro si parla di Malachia, di Nostradamus, sì, sì, sì, sì. E quindi insomma una canzone in realtà per l'integrazione eccetera, ma noi vogliamo riproporvela dopo 16 anni ma anche perché si vocifera questo, che potrebbe essere Nero. Veramente questa volta primo Papa Nero, e quindi non possiamo che non ascoltare questa canzone di Pittura Fresca, proprio Papa Nero. Questa è Radio Panorama. Radio Panorama. Come de mí, porque es enero africano. in Africa fama nero. Dopo Miss Italia nera fa nero. E compa, siamo in Sanremo mood, non possiamo. Compa. Scusami. Siamo amici, compa. Va bene, salutiamo tutti i nostri amici all'ascolto. A proposito, so che c'è tanta gente. Salutiamo Viviana, Antonella, Federica, tutte femmine. Oh, non c'è un maschio che ci segua. No. Noi siamo un programma. Ma tuo padre ci segue? Non lo so, può essere. Chiedevo, dico magari allo studio sì, lì, ci ascolta. Vabbè. Quindi dicevamo, settimana abbiamo preso l'argomento del Papa, direi che è il primo importante di cui trattare. Perché per la prima volta, cioè non è proprio la prima volta nella storia, però è la settima, ufficialmente la settima. Sì, però attenzione, i primi tre furono perseguitati, costretti, sì, Celestino V, Azzurrino VIII e compagnia. Invece per la prima volta un pontefice, uno degli ultimi fu Celestino, questo è Rosa Shocking. Puoi aumentare un attimo il sottofondo, ti prego, dopo questa cazzata? Ecco, meglio. Ha fatto scusi? Ecco, fine frase idiota. Va bene, Benedetto XVI, Papa Ratzinger, ha rassegnato le dimissioni. Come si fa in un normale consiglio di amministrazione, solo che qui diciamo che i simpatizzanti di questo ufficio consiglio di amministrazione sono un po' di più di quelli di un normale. Ma io tra l'altro ho postato un tweet di Gesù Cristo su Twitter. Di Dio. No, lui proprio di Gesù. Gesù. Ah, Gesù ha scritto che troverava il Papa di non aver dato il preavviso. Sì. Qualcuno ha scritto anche che allo IOR tremano per il trattamento di fine rapporto. Sì. Ma scusate, io vi faccio una domanda seria, perché l'argomento non è da liquidare in pochi secondi. Voi, e mi rivolgo a voi due e anche a chi ci ascolta a casa, credenti, sei in radio, ma siccome non sempre loro rispondono, invece vi invitiamo a rispondere a una cosa così importante, o su facebook.com o su Twitter, insomma in tutti i mezzi che conoscete, o via sms, voi che ne pensate di questa scelta del Papa? Direi domanda della settimana, perché abbiamo avuto un altro esempio con Papa Giovanni Paolo II, due personalità totalmente differenti, si può preferire l'una o l'altra, che invece è stato fino alla fine lì, come ha detto qualcuno, non è sceso dalla croce. Ma c'è qualcosa sotto. Tu dici? Qualcosa che mi fai il complottista? Non sono mai complottista, ma questa volta secondo me. Ma perché, scusami, tu non pensi che sia un esempio per chi invece non si scrolla dalla sua poltrona, una persona che si rende conto che non è più in grado di sostenere un peso così grande e dice io mi defilo, non credo sia il caso di rimanere lì. Infatti Andreotti trema. Io te la metto sul serio, non è da stimare, è un secondo te, sì, è un messaggio. Cioè una persona che dice scusa, ha chiesto anche scusa, scusate non me la sento più. A proposito di messaggi invece, ieri Crozza ha dato spettacolo a Sanremo, sì, ma ci sono state delle contestazioni, sì. Diciamo che sono pompate un po' dai media, perché in realtà i contestatori erano solamente due, sì, due ben noti, però sai, si sentivano parecchio in sottofondo, perché erano, noi intanto siamo passati dal Papa a Crozza, biglietto, cioè. Sì, vabbè, con una velocità, ma noi siamo polidiscorsivi, un scioltezza. Sì, ma sai, qualcuno dice povero attore, che quando un attore sta per fare qualcosa è brutto essere bloccato così, però qualcuno dice è possibile che Crozza sia stato lì a passeggiare, a godersi il momento perché dava la dimostrazione. Ecco, guardate chi sono gli antipolitici, quelli che non fanno parlare, che sono dalla parte del signor B. O qualcuno ancora Vincino, un disegnatore sul Fatto Quotidiano, rimpiangeva i vecchi comici come Dario Fo e altri, dicendo che loro non sarebbero stati lì a mangiarsi la dentiera, come hanno definito lo starzitto di Crozza. Sì, ma sì, io penso in realtà che, a prescindere dalla caratura di un comico, sì, essere sul palco di Sanremo comunque è un palco abbastanza forte, un palco che ti dà un'emozione molto forte, sì, infatti ti fa tremare quando hai una contestazione, quindi quando già sei lanciato lì, hai fatto la canzone, hai sceso dalle scale, sei riuscito a superare l'imbarazzo iniziale che credo che chiunque avrebbe in un palco così ampio, dove sei in Eurovisione, insomma è bello grosso, sentirti interrotto proprio da due contestatori così, hai pensato ecco la figuraccia ce l'ho fatta. E quindi un pochettino magari resi così a... Per certo, due persone... È intervenuto subito a smorzare. Due persone su un teatro di 1600 posti, non so bene. Tra l'altro con gli altri che fischiavano questi due. Esatto. Perché anche se non si capiva bene, poi hanno spiegato che questi due sono stati isolati anche dal pubblico, non solo dalle guardie della sicurezza che li hanno invitati a allontanare. Mandati via. Va bene, allora, passiamo invece agli argomenti che tratteremo oggi in questa radio. Intanto facciamo i saluti ai primi follower che ci scrivono. Sì. Giada, che... Ciao Giada. Che magari che c'ha, che vuole un salutino. Ma sì, scritto nel mio profilo personale, ma che non che problema c'è? Ascoltate anche il profilo dell'Onda in Onda, ascoltate, seguiteci anche il profilo dell'Onda in Onda, ascoltate leggendo, quindi immaginatevelo. Diamo intanto il titolo della classifica delle 10 che daremo oggi e poi annunciamo ci saranno i vari ospiti, soprattutto la sorpresa di un ospite che abbiamo mandato a non possiamo Sanremo, dire al momento chi sia, però la classifica di oggi, come ogni settimana ormai da più di un mese, i 10, questa volta sono i 10 momenti in cui mangiamo come se non ci fosse un domani, che quindi dice sicuramente non è quel, non fa parte di quei lunedì famosi in cui dici domani è lunedì e inizio la dieta. Esatto, va bene, io direi di iniziare il nostro, le nostre notizie, le nostre vaccate subito dopo il prossimo pezzo. Sì, ci ascoltiamo Gotti con Somebody That I Used To Know. Correggeva il mio collega Andrea, non si chiama Gotti ma Gotti. Sono le 18:24 e siamo sempre da Radio Panorama. Ma la radio, sei cretino. La radio che ti ama. E dietro il vetro vedo Claudio. Ciao. Saluta. Puoi alzare la mano, non ti sembra un teletubbies. Facciamo la marchetta. seguite domani dalle 21:30. Sì, lo sai che mi piace... alle 23:30. Positive Vibration. Lo sai che mi piacerebbe imitare Claudio, perché Claudio ha raggiunto uno stile interessante nel modo di parlare, però c'ha una caratteristica che secondo me è da imitare. È possibile. La perfezionerò e magari qualche volta la farò. Volta. Io direi che abbiamo parlato di troppe cose serie, il Papa, Crozza, Sanremo. Dobbiamo dedicarci a una di quelle notizie ancora più serie. Ancora più serie. Tengono in trepidante attesa tutta l'Italia quando ascolta il nostro programma. Intanto abbiamo una contestazione. Sì, su Facebook ci scrivono: mercoledì prossimo verrò a contestarvi in diretta e vi fischio. Perché? Perché avremo Berlusconi. Perché avremo Berlusconi ospite che commenterà a pochi giorni dalle elezioni. Annunciamo invece che abbiamo un nostro caro amico che viene a trovarci qui all'Onda in Onda e abbiamo deciso di mandarlo a Sanremo a seguire il festival. Sì. Sì. Lui ci ha detto io sarò lì, quindi abbiamo detto vabbè guarda ti diamo un microfono, un cellulare, chiama, così ti mettiamo in diretta, c'è delle anticipazioni. Noi non sapevamo fino a ieri lui che ruolo avesse in questo festival, l'abbiamo scoperto, quindi se volete saperlo anche voi restate con noi. Ma passiamo subito alla notizia che viene dalla USA a Johnston. Si masturba a colloquio di lavoro, arrestato. È una notizia che tutti attendevano. Mancava, sì. C'è anche il pubblico. Il pubblico non vedeva l'ora di queste notizie. Sì. Un uomo di Johnston, in South Carolina, è stato arrestato per atti osceni dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava ad un colloquio di lavoro. Ora io vorrei vuoi sapere di nuovo dov'è? Aspetta, perché c'è lui che vuole dire qualcosa. Salve, salve Willy, come stai, Willy? Bene, importante che sta bene. Appunto, lui si chiama Willie Merriweather. Ma come si fa? Cioè, il tempo del matrimonio. Sì. Ma di 53 anni era già stato accusato di atti osceni per essere stato sorpreso a masturbarsi davanti a un computer pubblico. Ma c'è qualcuno che sta peggio di te, compare. Dipende. Immagina, I need an internet point. Why? I have to masturbate myself. Comunque, vabbè. Un dipendente dell'ufficio di collegamento ha detto alla polizia che lunedì l'uomo avrebbe mostrato. Andrea, prende la rincorsa. Sì, non ce la faccio, devo fermare. Vabbè. Che avrebbe mostrato i propri genitali durante il colloquio di lavoro. La vittima ha raccontato che l'uomo è entrato nell'ufficio, si è seduto davanti alla sua scrivania e mentre la donna gli faceva delle domande di routine ha iniziato a masturbarsi. Era bella la donna o lui aveva deciso di farlo a prescindere? Non lo sappiamo, non è dato sapere. A quel punto la donna l'ha cacciato dalla stanza e ha chiamato la polizia. Quando è stato arrestato, gli agenti hanno scoperto che era stato, eccola, già accusato in precedenza di attuare il logo pubblico. Beh, abbiamo tutto live mentre raccontiamo, ma devi leggere l'ultima parte. Alla polizia, Merriweather ha detto che il suo pene gli è uscito dai pantaloni mentre parlava con la donna. Perché ovviamente i peni vivono di vita propria, vanno fuori perché dai pantaloni. Si era dimenticato di chiudere la zip dai pantaloni. E certo, a chi non capita di noi, noi lasciamo la zip aperta e lui se ne va per i fatti suoi. Va bene, allora abbiamo la pubblicità, restate con noi perché non è vero, dobbiamo lanciare una canzone che poi avrà seguito. La pubblicità e restate qui con noi, la dedichiamo a Francesco che ci sta ascoltando dall'estero, credo da Tallinn, se non sbaglio. Tallinn. Mi pare. Ma dov'è Tallinn? Capitale di qualcosa tipo Estonia, Lituania. Non puoi dirlo, poi non so. Non mi ricordo, adesso glielo chiedo. Vabbè, lo dedichiamo a lui e ci ascoltiamo subito. Tallinn. I The Who con I Can't Explain. A dopo la pubblicità. Ciao. Radio Panorama. Panorama. Stai ascoltando L'Onda in Onda. De Peru Radio. A ultima noce. And we will see how godless a nation we have become. Abbiamo testimonianze di persone che stanno soffrendo oggi a non vederci in diretta in webcam, devono solo ascoltarci. Sono le 18.37, siamo sempre qui con L'Onda in Onda, questa è Radio Panorama, io sono Antonio e qui con me ci sono Andrea e Brumma. Andrea, che stai facendo di bello nella vita? Ma in niente, stavo cercando di preparare il collegamento per il nostro ospite che abbiamo mandato a Sanremo, cioè nel senso lui andava già a Sanremo, noi abbiamo detto, abbiamo cercato di avere un collegamento con lui, ma lo avremo sicuramente più tardi. Perché al momento dobbiamo concentrarci sulla nostra classifica. Sì, ma prima della classifica, se mi dà la possibilità, visto che abbiamo salutato Francesco che è all'estero, io purtroppo ho sbagliato città. Lui vabbè, capita, non, no, vabbè, però non si trova a Tallinn, ma in realtà non ce l'hai quella cosa lì, regista? Un moment, lo dice fuori dal nostro studio addirittura. Oh, salutiamo il buon Fabio di Music in Love che è lì dall'altra parte. Ricordiamo che va in onda il venerdì alle 21. Va bene, allora venerdì alle 21. Venerdì e mercoledì alle 16. Esatto, e venerdì alle 21. Noi lo sappiamo. Radio Panorama, la radio che ti... Allora io voglio fare un piccolo così per scusarmi, è sbagliato città. Prego, regista. Vilnius, in polacco Wilno, in russo Gra-gra. Vilna, in bielorusso Vinia, è la capitale della Lituania e la città più popolata del paese. È il capoluogo della contea di Vilnius e sede arcivescovile. Vanta un centro storico barocco tra i più estesi e meglio conservati in Europa, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Così, volevo chiedere io scusa. Io veramente un applauso ad Antonio per averci dato questo momento culturale su Vilnius. Volevo un attimo, sì, ringraziare Francesco. Ne faremo poi una su Sanremo, allora. Ovviamente sì, prima di parlare di Sanremo, Sanremo. Incipiteremo, spero, ogni volta che parliamo di una città, uno lo vuole. Anche il Regalgioffoli. Troveremo ora notizie e ne parleremo, va bene. Va bene, allora, la nostra classifica, iniziamo. I 10 momenti in cui mangiamo come se non ci fosse un domani. Intanto, tu sei mai stato a dieta? Io no, perché sono abbastanza magro. Ma esistono anche le diete ingrassanti, mio caro ignorante. Le faccio regolarmente, mangiando. Si vede, guarda. Sì, mangio tutto. È meglio che non dico cosa mi hai mandato, no, come foto, no, vabbè. No, no, e no. Allora, andiamo al decimo posto di questa classifica, sì, interessante. Partiamo dal più basso. Ingozzamento, sì. La domenica con i parenti. Ingozzamento, coatto, quando c'è il raduno del parentato e non ci si può esimere. Bisogna, sì, mangiare tutto e garantire il bis ad ogni portata. Assolutamente. Si mangia per far felici gli altri, secondando un incontestabile diktat materno. Se non mangi, poi si offendono. E vabbè, è questo. Di questi raduni infiniti nasce il 90% di promesse di diete del lunedì. Ovviamente. Il lunedì inizio la dieta. Questo è il decimo posto. Andiamo subito al nono. Il nono posto, il giorno che precede una dieta. È il giorno in cui tutto ti è concesso. Il giorno prima del giorno di dolore che uno ha, citando Ligabue. The day before è qualcosa di molto simile all'ultimo pasto di un condannato a morte. Mangi tutto quello che ti capita a tiro. Più trasuda grasso e meglio è. La dieta va iniziata senza rimpianti e con la pancia piena, anzi pienissima. Oltre. Ma andiamo all'ottavo posto, sushi a prezzo fisso, all you can eat, che io mangio ogni settimana. Che ne aprono tra l'altro però a Palermo con una velocità, sì, pazzesca, sì, sì, sì, sì, cioè, sì, crescono come funghi, vai. L'equazione lineare, spendo 15 euro, ho l'obbligo morale di consumarne per 150, consumarne per 150. Ho l'obbligo morale di consumarne. Perché è sushi, quindi è sushi. Si andava ad arti marziali, tutto quello che posare dentro di me ce lo faccio stare. Che bello essere un bidone. È vero, sì, perché poi tu dici, vabbè, pesce, non riempirà mai. Ma ricordiamo che nel sushi c'è anche qualcosa che si chiama riso. E il riso fa un po' gonfiare, insomma, sì, si sente che lo mangi. Non tantissimo, se ne mangi tanto. Sì, insomma. Ma se ne mangi tantissimo, insomma. Sono stato la settimana scorsa all'All You Can Eat. Ah, com'è, quindi... com'è questo? È buono. Allora, Francesco ci ringrazia, ha le lacrime che gli scendono. Probabilmente è emozionato perché non aveva mai sentito parlare di Vilnius. Sì, quindi, emoziona tutti. Nessuno parla di Vilnius, però andremo approfondita la questione. Senti, abbiamo tempo per una ricetta, una notizia velocissima. Sì, dai, anche una ricetta, spaghetti agli olio, una veloce. No, la ricetta ce la darà più avanti il nostro Tony. Questa è interessante. 50 orgasmi al giorno hanno reso la mia vita un inferno. Pensa a chi non ne ha manco uno. Amanda Grease, 22 anni, soffre di una malattia rara. Una malattia, mi sono svegliato e ho trovato Mattia. Oh, bella. Ciao. Malattia rara che porta ad avere fino a 50 orgasmi al giorno, fin dall'età di 8 anni. Questo... No, ecco, no, un riassunto della vita di Amanda. Della giornata tipo di Amanda. Amanda, ore 8 del mattino. C'è stato pure tra l'altro un colpo di batteria, cioè anche Santana interviene alle 8 del mattino. Amanda ha orgasmi ovunque, mentre in giro con gli amici, al lavoro, basta anche una semplice vibrazione del cellulare. Soltanto un anno fa Gretchen Mullan, 39 anni, si è suicidata in Florida dopo aver combattuto per 16 anni contro questa malattia, nota come sindrome di eccitazione sessuale persistente o PSAS. Io perché mi è da ridere anche se sono suicidata? PSAS. Cos'hai la PSAS? Ah. Andrea, ma scusa, tu non hai la PSAS? No. No, dico... No, vedi, Andrea ce l'ha la PSAS. Noi siamo sempre alle 18:42, i bambini li salutiamo, anche la mamma. Ciao mamma. Non è piacevole, afferma Amanda, intervistata dal The Sun. È diventata una tortura. Questa situazione influenza completamente la mia vita. È come vivere in un incubo dove posso avere fino a 50 orgasmi in un giorno, 5-10 in meno di un'ora. 5-10 in meno di un'ora. Succede ovunque ed è molto imbarazzante. Adesso vivo con paura e vergogna. Ho pensato anche al suicidio. Non riesco ad avere un rapporto duraturo con gli uomini. Spero almeno che la mia testimonianza possa essere d'aiuto a chi soffre come me. Io vorrei soltanto immaginare, dopo l'intervista al The Sun, il giornalista come è uscito da questa intervista con Amanda. Senta, con una, farsi una doccia. Sì, magari gli chiede, senta, ma lei come si chiama? Il suo nome? Ah, ecco, da quando è iniziato il suo problema? E beh, quindi non si può parlare, non si può fare un'intervista. Tra l'altro, insomma, è una bella ragazza. Va bene, io credo che sia il momento di spararci un altro gran pezzo, perché parliamo, ma la musica ci vuole sempre. Allora, e poi restate con noi perché abbiamo il nostro inviato da Sanremo. Sì, assolutamente, allora ci ascoltiamo i Nerd, o N-E-R-D se vuoi, con She Wants to Move. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Shake it up, girl. Shake it up. Peace. Hey. sì. Qui sempre con L'Onda in Onda, sempre su Radio Panorama, la radio che vi ama e vi odia, vi guarda e si gira, la radio che fa tutto nella vostra vita. Allora, dove vi trovate in questo momento? Scrivetecelo via SMS 380 76 90 204. Noi, se avete bisogno di soccorso stradale, veniamo a prendervi. Se siete a casa da soli, vi veniamo a fare compagnia. Ma credo, se il mio collega Andrea mi dà l'ok, che sia il momento del collegamento che tanto stavamo aspettando. Sì, ci stiamo sì, per collegare con la città dei fiori. Anzi, se hai pronta l'aria sulla quarta corda, diciamo due parole sulla città dei fiori. Se ce l'hai pronta, io vedo che è Brum. Un attimo. Sì, sì, sì, anche due, non ti preoccupare. Comunque, dicevamo che ci stiamo collegando con la città dei fiori perché avremo il piacere di intervistare un ospite. Sanremo, Sanremo in Ligure, anticamente Villa Matuzie, è un comune italiano di 56.946 o 5 abitanti, dipende se si riprende dall'infarto, della provincia di Imperia in Liguria. È il primo comune della provincia per popolazione e il quarto della regione. Basta, io direi che può bastare come introduzione. Era, e finisce così. Sì. Ah, vabbè. Ma tanto lo sappiamo che è famoso per il festival della canzone italiana. Ah, vabbè, insomma, per i fiori, no? Per i fiori, sì. Sanremo in Ligure. Ti ho visto stare male. Sanremo. Ma perché c'era anche la dieresi, i due puntini sulla U. Sanremo. Si chiama dieresi U? Non lo so. I puntini sono di dieresi? Sì. Guarda lui che studia lingue. O di dialisi, dipende. Certo, se ha problemi al rene, allora sono 945 abitanti, sempre di meno. Va bene, allora noi ci stiamo per collegare, ovviamente oggi... Allora facciamo quella cosa sì, lì? Sì, anche perché lui ha detto che se no non parla, mentre normalmente lui, ora capirete chi vuole, come sottofondo, pretende l'internazionale comunista, da grande ultimo baluardo, oggi lui, non lo chiamiamo al momento per nome, lui ci ha chiesto di fare per lui, a cappella, la sigla di Sanremo. Noi abbiamo pensato di farla non a cappella ma in un altro modo. Sì. Cioè, no, però... No, lo stai già chiamando? È già il telefono, ma lo vuole sentire. No, no, non lo sta chiamando, lo sta chiamando. Lo sta chiamando, certo, perché altrimenti... Ah, eccolo qua. Ecco che si sta collegando con noi. Tu sei pronto? È la sigla che fu resa famoso nel 1996. 92, se non sbaglio. 2? Io ricordavo 96, 92, quindi 21 anni di questa sigla, che credo sia la più famosa tra le sigle sanremesi, anzi senza credo. E quindi, quando ci dici tu, lui c'è già? Sì, è in silenzio, ma credo ci sia. Allora, sei pronto, Andrea? Prontissimo. 1, 2, 3. Senti una canzone, e diamo il benvenuto a Fidelio Cusimano, l'ultimo grande baluardo del comunismo. È lì collegato dalla città dei fiori, non vedeva l'ora di sentirci e io sono emozionato perché adesso, dopo aver sentito il Festival di Sanremo, il suo, io non riesco a parlare, la sigla del festival cantata da noi a cappella, adesso sentiamo in sottofondo il suo pezzo, vediamo se lui c'è già pronto. Fidelio, buonasera, buonasera. Ciao Fidelio, sei un grandissimo, ciao. Buonasera a tutto il pubblico di Radio Panorama, dal collettivo Giancarlo Mazzello in trasferta a Sanremo. Parla come se... Avere... Sì, sì, sì, sì, sì, scusi, mi dica. Non ho capito. No, no, dicevo che lei praticamente siete con tutto il collettivo lì nella città dei fiori. Quanti siete? Il collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario, ovviamente, sono venuto io e basta da Regalcioppoli, questo grande paese regalcioppolese, e in questo festival vi avevo preannunciato, voi mi avete detto chiama da lì, chiamate voi del collettivo Giancarlo Mattello, abbiamo chiamato dopo l'esibizione di ieri, che è stata veramente bellissima, col grande compagno leninista Toto Cutugno. No, no, no, aspetti, lei ci sta dicendo esclusiva assoluta, Brumma, che lei forse faceva parte, a quanto pare, del coro dell'Armata Rossa che ha cantato l'italiano con Toto Cutugno. Mi avete visto? Mi sì. avete visto ieri sera in diretta? Vedo che... Una voce soave sì. mentre facevo il coretto di dell'italiano medio, anche se io volevo cantare in regalcioppolese. E com'è il regalcioppolese? Guardi, facciamo una prova. Facciamo una prova. Io faccio Cutugno e lei mi fa il controcoro, così abbiamo la prova che era davvero lei. È pronto? Vado? Ma sì, mi dica, vada. Vado. Allora, abbassa il volume del sottofondo, Brumma. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono italiano. Io sono italiano. No. Si sente, cioè, per favore, rialza il coro, perché si sente che c'è il tocco del Cusimano in quello che è stata una grande esibizione di ieri sera. Senta, come si è sentito sul palco dell'Ariston, in mezzo comunque a una platea di gente ricca, c'era tanta... Guardi, noi colleghi dell'Armata Rossa eravamo felici di fare da spalla al grande compagno leninista Totò Cutugno. Non è Totò, scusi, è senza accento, è Totò. E Toto Cutugno, come Lenin, Lenin si chiamava Toto. Sì, sì, veramente sì. Felici del nostro nananò. Guardi, anche quando la Letizetto è venuta davanti, io l'avevo proprio davanti a me, la Letizetto, e le ho detto nananà, mentre lei dirigeva la nostra grandissima Armata Rossa. Mi scusi, era una battuta perché la Letizetto è bassa e gli ha cantato nananà, o è un caso? Però è vero, lei non ha visto il festival, allora però vorrei dirle che sfido i vostri ascoltatori e i telespettatori di Sanremo a trovare me stesso nel coro dell'Armata Rossa. Sì, abbiamo capito il colore, non ci sono dubbi sul colore, è rosso. Sì, sì, è rosso, non soffra. Senta, ma le posso chiedere una cosa? Lei ieri ha seguito le esibizioni degli artisti? No. Dopo siamo andati a bere vodka con l'Armata e il grande compagno Toto Cutugno. Va bene, Toto Cutugno, però voi siete andati dopo, ma voi siete stati comunque nell'ultima parte della serata. Io voglio sapere se dei 7 cantanti che si sono esibiti ieri con 2 pezzi c'è qualcuno che le è piaciuto in particolare. Ci dica un nome, senza pensarci. Ma guardi, noi bevevamo prima, quindi posso dire il compagno vodka. Il compagno? Vodka. Vorbica? Vodka. Il compagno vodka. Ma non le è piaciuto Daniele Silvestri piuttosto che Gualazzi o Marco Mengoni? Guardi, niente, non saprebbe dirci. Gualazzi, noi potevamo fare battute, ma abbiamo deciso di come evitare. La Litizetto di evitare. Avete fatto benissimo, benissimo. Va bene, Fidelio, il tempo stringe. Senti, per stasera cosa... L'ultima cosa è che questa abbiamo avuto un accordo noi del collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario studentesco dei Regalcioffri, un accordo con l'Ariston. Il pomeriggio, quando il teatro è chiuso, noi proiettiamo un film neorealista. Non ci credo che fate anche il cineforum all'Ariston, no. E ovviamente proiettiamo la storia di Toto Cutugno, allevato dall'Armata Rossa. Quindi è come dire un romanzo di formazione, possiamo dirlo? Sì, beh, possiamo dirlo. Perfetto, ricordiamo il colore dell'armata? Rossa! Benissimo, e salutiamo Fidelio, lo ringraziamo, gli auguriamo una buona permanenza nella città dei fiori e noi ci spariamo un pezzo di un grande del pop contemporaneo, ci ascoltiamo Bruno Mars con Locked Out of Heaven. Panorama. Ascoltando L'Onda in Onda. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. because I got high. La da da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La-da, they took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La-da-da-da-da-da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La-da-da-da. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La-da-da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Trying to shut up. Yeah, because I got high. Because I got high. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, go. Come on. Go. I messed up my entire life because I got high. I lost my kids and wife because I got high. Say what? Say what? Say what? Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, because I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this song because I'm high. Baby, I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back. Bring it back. And if I don't sell one copy, I'll know why. Why, man? Yeah, cause I'm high. Cause I'm high. Cause I'm high. Are you really high, though, man? La da da da da. La da da da. He really is high, man. Shoop, shoop, shooby doo wah. Get jiggy with it. Skippity bebop. Doo wah. Rientriamo in questa rientriamo con brio. Sì. E allora siamo sempre qui con l'onda in onda a Radio Panorama. Sì, sto parlando. Hai problemi, regista? Ci sono problemi? Il regista ti dice che sei un quacquaraquà. Un quacquaraquà. Chi è che disse, chi divise i siciliani in cinque categorie? Manzoni. No, Manzoni. Io mi auguro che Verga. Io mi auguro che questo momento nessuno abbia acceso la radio. Leonardo Sciascia. Lo so. Come erano divisi? In omini. Omini, ominicchi. No, c'era già scordato uno. Menzi omini. E ominicchi. E qua. No, compare. I ruffiani. O anche ruffiani, ti piglia in culo. Beh, e qua. Non mi ricordo più. Vabbè. Intanto noi sentiamo il regista che parla al telefono. Ma io ricordavo invece, appunto, il canto di Celestino Quinto. Sì. Non ricordavo la terzina. Come si chiama? La terzina. Che vuoi dirmi? No, la strofa, no? La strofa si chiama, quella di Dante, dell'inferno. Sì, terzina, strofa. Non ricordavo di preciso, ma ricordavo il personaggio. Va bene, comunque, avevamo annunciato nella nostra anteprima del programma l'intervista di oggi, oltre alle nostre classifiche e altre varie notizie, ci sarebbero stati con noi Leon in intervista. L'abbiamo Simone qui con noi ai microfoni di Radio Panorama. Ciao Simone! Ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai? Come va? Tutto bene, un po' di corsa come stai, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, dai, va bene. L'importante è tirare un sospiro di sollievo. E siamo veramente lieti di averti qui ospite ai microfoni, al telefono di Radio Panorama. Senti, parliamo del tuo album d'esordio, Come se fossi Dio. E sì. Del primo singolo estratto che, correggimi se sbaglio, si intitola Nel Gin. Sì, esatto. Ecco, cosa succede in questo gin? Parlaci un po' tu, dai. Allora, ti racconto un po'. Beh, Nel Gin, il primo singolo estratto, io vengo dalla realtà valdostana, sono valdostano. Sì. E non so se lo sai, ma noi abbiamo il più alto tasso di alcolismo in Italia, sì. Abbiamo questo primato. Ci sono anche motivazioni, sì, ben valide, vista la temperatura, però va bene. Sì, guarda, però posso dirti che poi d'estate c'è 30 gradi e la gente beve lo stesso e dice che ha sete, quindi... Ah, quindi è proprio così, cioè è proprio ormai un'usanza, non si può fare a meno nonostante la temperatura, ok, questo non lo sapevo. Assolutamente, sì, in realtà poi alla fine è anche un bel problema, perché molta gente qui beve per dimenticare delle vite che non si è in grado di affrontare, quindi il tema in realtà è pesante, però il mio pezzo non è pesante perché ho voluto dargli un'atmosfera volutamente leggera, ironica, come pezzi. Giusto, sì, sì, sì, esatto, ironica, sarcastica anche, come tutto il progetto. Tu accennavi prima il titolo dell'album, Come se fossi Dio, ovviamente è un titolo decisamente provocatorio. Mm-hmm. E posso già dirvi che il video del singolo sarà decisamente scandaloso, uscirà all'inizio di marzo. Ma già io vedo la copertina del disco, che è anche quella abbastanza provocatoria, perché Come se fossi Dio è, insomma, si vede che l'espressione è anche il trucco sbavato dall'occhio a simulare delle lacrime, è quella di un Gesù Cristo in croce. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi potresti essere anche tu il prossimo Papa, diciamo. Sì, assolutamente, hai le carte in regola. Sì. Diciamo che io credo che il Papa abbia avuto delle notizie sul mio prossimo video e si è dimesso prima. Perché dice, poi gli vengono a chiedere con te soddisfazione che ne pensa. Io non volere sapere niente. Perché il tuo prossimo video è così blasfemo? Guarda, non vi rovino la sorpresa, vi dico solo che... Che ci sarà Papa Ratzinger a interpretarlo, ed ecco perché si è dimesso per girare le riprese del video. Magari, sarebbe stato un colpaccio. Quello sì che era il colpaccio. Sì. Con la pubblicità non riusciamo a arrivare a tanto, però dai... Quando dovrebbe uscire? Guarda, il video io mi pare sia fissato per il 10 di marzo l'uscita, l'anteprima già il 24 di febbraio. Ah, perfetto. E, senti, qua leggo un po' dai tuoi credits che nel 2009 sei stato affiancato da quello che viene definito un profeta dell'apocalisse musicale, che è Pietro Foresti, un produttore che, insomma, si è fatto le ossa come si deve a Los Angeles. Sì, esattamente. Lui, i pezzi sono miei, i pezzi sono costruiti girando attorno a voce e chitarra, perché tra l'altro io li presenterò dal vivo in questi mesi, almeno fino a settembre, così in versione basic, totale, voce e chitarra con effetti, ma da solo. E questo perché uno dei temi dell'album è appunto quello in cui io voglio mettermi a nudo dopo 15 anni di attività live, dopo 15 anni di gruppi che ho avuto. Questa volta ho il pieno controllo e ho voluto presentarmi per quello che sono, quindi anche dal vivo mi presenterò nel modo che è più sfida per un cantante, cioè senza nessun altro, voce, chitarra, senza alcun orpello, che poi è giusto perché il pubblico può rendersi subito conto di come sono nati i brani nudi e crudi, così come sono nati proprio dalla tua voce e chitarra. Noi in sottofondo, mentre ti stiamo ascoltando, ti stiamo intervistando, stiamo passando un tuo pezzo dell'album che si intitola Bellissima, devo dire che ha un bel tiro, ci piace, un bel sound. Senti Simone, io devo chiederti una cosa. Vedo nella copertina, nel concept e anche nella foto, che c'è un graffio nella O, che poi si riporta anche nel tuo, diciamo che sono petto, un triplo graffio. Sì. Cosa significa? Innanzitutto voi notate tutto, complimenti, che siete i primi ad averlo notato. Grazie. In effetti questa cosa c'è, perché io ce li ho veramente quei graffi sul petto, perché c'è stato un periodo nella mia vita in cui ero un po' così, diciamo, ero un po' turbato da varie cose, e invece di farmi un tatuaggio mi sono fatto un bel segno sulla pelle con la lametta, quindi ho veramente questi tre tagli sul petto. Te li sei fatti da solo? Auto inferti, sì, poi sotto la doccia mi grattavo per non farli cicatrizzare, così mi sono rimasti tre bei segni di taglio che sono diventati un po' un marchio di fabbrica. Devo dire che sono abbastanza estetici. Sì, ma poi il nostro regista, mentre tu raccontavi la modalità, aveva la faccia di dice: ma questi bevono veramente tanto lì in Val d'Aosta, porca miseria. Cioè, la faccia era quella, proprio quella lì. Però beh, siamo i primi ad averlo notato, quindi aspetta, contenti. Il regista deve dire qualcosa. C'è freddo, devono per questo. C'è freddo, sì, e devono comunque in qualche modo, sì, assolutamente. No, sono contento di essere uno dei primi ad averlo notato, quindi insomma. Premio, se vuoi te lo posso fare, se ci vediamo te lo posso fare io uguale al mio. No, grazie. Guarda che carino, comunque, vedi che, cioè, fa figo avere tre tagli così. Quando sarai Dio, magari ne possiamo parlare. Sì, a quel punto dice il famoso autografo di Dio di cui parla Jovanotti. E, senti, Leon, tu sei cresciuto. Quanti anni hai intanto? Io ne ho 30. 30. E passati la maggior parte lì nella tua terra, in Val d'Aosta, oppure sei migrato, come si suol dire, o stai ancora lì? No, io sono qua, sono migrato per alcuni periodi, ad esempio qualche anno fa ho preso 2 mesi e mi sono fatto l'Irlanda girando, suonando per le strade voce chitarra. Bello, bellissimo, sicuramente una cosa, un'esperienza formativa, un'esperienza importante, forte. Ma è perché te l'ho chiesto perché volevo capire quanto nell'album ci fosse della tua terra e quanto l'influsso di quello che hai visto al di fuori, se avevi vissuto a una certa età, se ti fossi spostato da lì. Te l'ho chiesto soprattutto per quello, per capire un po' le influenze nel tuo album. Certo, no, in realtà no, io ho sempre vissuto qui e devo dire che sono, come già vi dicevo prima, sono anche parecchio critico sulla mentalità della mia terra, perché diciamo che qua ci sono molti artisti che possiamo definire di regime, no? Sì. Cioè, artisti che sfruttano il sistema politico per riuscire a farsi una notorietà qua in valle, e poi siamo piccolissimi, noi abbiamo 120.000 abitanti. Ah, siete però... proprio, vi conoscete tutti praticamente, o quasi, per modo di dire. Sì. Più o meno sì, però io ci tengo a sottolineare anche gli aspetti che meno vengono enfatizzati dalla pubblicità della Val d'Aosta come Isola Felice, perché credo che l'artista debba dire quello che pensa senza pensare alle conseguenze, nel senso che deve mettere a nudo non solo se stesso ma anche la società nella quale vive. Quindi non sono molto tenero nei confronti della mia valle, anche se ovviamente mi ha influenzato tantissimo. Certo. Senti, il tempo, se mi fanno segno se non sbaglio, sì, che il tempo stringe, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui ai microfoni di Radio Panorama. Ti facciamo il migliore degli in bocca al lupo per la tua carriera. Hai un tour alle porte, hai detto che comincerai voce e chitarra, da dove? Guarda, sto organizzando concerti in tutto il nord Italia, il più possibile, guarda, ovunque mi chiamino io vado, perché ho una gran voglia di suonare, quindi sto organizzando, è tutto in itiner, ma sicuramente visiterò più posti possibile. Allora Simone, noi volevamo trasmettere invece uno dei tuoi singoli, che è Ego Te Absolvo. Due paroline su questo brano e poi ce lo ascoltiamo tutti assieme. Ecco, questo è il brano più scandaloso dell'intero album. Noi lo passiamo alle 19:15 della sera, evviva, prego. Bravissimi, bisogna avere il coraggio, grandi, sono contento. È il pezzo più provocatorio in assoluto. Scusaci, è successo qualcosa col telefono, pronto? Pronto? Sono. Ci senti? Sono? Sì, ci sei. Prego, continua. Ci sei. Quindi niente, c'è un prete in un confessionale e un ragazzo e non stanno pregando, questo è il pezzo. Ah, ho capito, bene, quindi insomma abbastanza attuale e molto forte. Allora ce l'ascoltiamo, noi ti auguriamo tanta fortuna, un grosso in bocca al lupo a te Leon e ai tuoi graffi soprattutto. Speriamo di risentirci. Grazie. Presto. Va bene, ci ascoltiamo Ego Te Absolvo e Leon. Grazie Simone. Grazie a voi, ciao. Ciao. Benissimo, abbiamo ascoltato un pezzo per tutte le famiglie, lo consigliamo per i weekend, sapete quando si riuniscono attorno al camino, no? In villeggiatura, quindi era Ego Te Absolvo di Leon. Andrea, scusate, che... ho starnutito. È successo? Capita. Gli stesse partendo la testa. Sì, sembrava stesse per dire i miei... Va bene, andiamo subito, torniamo alla classifica dei 10 momenti in cui mangiamo come se non ci fosse un domani. Facciamo un excursus dal decimo posto. La domenica con i parenti, al nono posto abbiamo il giorno che precede una dieta in cui ci si dà da fare, e l'ottavo posto i sushi a prezzo fisso all you can eat, che diciamo io che adoro. Eh sì, a Palermo ne sono nati tanti negli ultimi tempi. Ma poi abbiamo al settimo posto mangiare biscotti a metà. Ma mangiare mezzo biscotto alla volta ci assolve. No, beh, comunque è vero. Cioè, prendo un biscotto grande oppure una mezza chiacchiera e dico, vabbè, non sto ingrassando. Mangiare mezzo biscotto alla volta, appunto, dicevamo, ci assolve psicologicamente dai nostri peccati. Peccato che mangiare 46 mezzi abbracci o 23 abbracci interi non faccia alcuna differenza. Io, ma certo, ma non parliamo. Voglio dedicarlo a Serena, che sicuramente ci sta ascoltando, e lei è fan dei mezzi biscotti. Ah, perfetto. Andiamo alla posizione numero 6. Prego, a te, Andrea. Quando ti fidanzi, beh, la tua dolce metà non fa altro che ingozzarti. Questo è vero, Stefania? Tu che quando hai aggiornato lo status relazionale su Facebook hai smesso di lottare e ti consideri arrivato, ci caschi. Sciocco, ti lascerà dopo averti reso pingue e rubicondo. Pianterà te e il tuo pancione dicendoti che oltretutto sei ingrassato. Sì, che poi non si sa perché lo fanno. Lo fanno perché... Pingue. Pingue, però. Ti piace la parola pingue? Mi piace, cioè, da morire. Voglio capire perché lo fanno, secondo te. Perché vogliono renderti un po' meno bello ed essere meno gelose, però non poi so, allo stesso tempo si stancano. Perché come Hansel, la strega di Hansel e Gretel, vogliono mangiare. Bravo, bravo. Non bravo. Non lo so. Io lo però chiedo. Io sono quello che ingozza, quindi vabbè. Chiediamo alle donne all'ascolto perché ci fate ingozzare quando vi fidanzate con noi. Quinto posto, il grigliatone con gli amici. Fra cibo e alcol, durante una spensierata grigliata con gli amici, mangiamo ciò che normalmente ingeriamo in una settimana, senza accorgercene. Ore 10.48, primo hamburger. Ore 15.07, salta il bottone dei pantaloni. I più esperti arrivano in tuta. Ore 19.32, l'ombelico esce in fuori e la nausea prende il sopravvento. Ma la fine delle ostilità arriverà soltanto alle 21.15 con l'ultima fredda, inspiegabilmente irresistibile, salamella avanzata. O in Sicilia, asasizza. Asasizza sicca. Andiamo al quarto posto perché ci conserviamo il podio per la fine, il post corsa, perché in fondo te lo sei meritato. Che una cazzata, sprechi tu subito tutto. Hai sgambettato, non sei mica stato davanti al divano a guardare la TV. Mica c'è ancora a pettinare le bambole. Esatto. E si finisce a mandare giù il triplo delle calorie bruciate, vero atleta? E questo era il quarto posto della nostra classifica di 10 momenti in cui mangiamo come se non ci fosse un domani. Il podio, se volete sapere cosa c'è al terzo, al secondo e al primo posto, lo daremo più avanti nel corso della puntata. Saremo con voi fino alle 8 di questa sera. Io direi di spararci il prossimo pezzo e torniamo subito dopo, sempre con l'onda in onda. Eh sì, e ci spaiamo i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. I'm not afraid of the dark. eccoci sempre qui in diretta, sempre su Radio Panorama, e credo sia il momento di ascoltare prima una notizia, sì, e dopodiché subito una notiziola di quelle importanti che fanno trepidare i nostri ascoltatori. Nasconde il cellulare nell'ano, ma uno squillo lo tradisce. Io ne ho una simile, tra l'altro, che mi è accaduta veramente. Sì? Sì. Cosa hai nascosto? Io non so, non posso dire i protagonisti, però una persona ha smarrito il telefono cellulare, disperata, ovviamente se mi sta ascoltando per ora mi starà odiando perché lo sto sputtanando al mondo, non lo trovava. Allora ovviamente cosa fa? Vabbè, va a fare denuncia per bloccare la SIM, sì, no? Va a fare denuncia di smarrimento o furto e va ad acquistare un cellulare nuovo. Se non che la badante della persona, della zia della persona in questione, chiama dicendo: io ho trovato il telefonino. Dove? Era sotto culo di zia. Era finito. Non è una battuta, era finito proprio lì. Ma proprio lì. Però l'aveva spento con il peso. Quindi quando chiamava da aver raggiungibile, se non le vibrava il culo. No, invece questo l'ho lasciato acceso. Infatti, dimenticarsi di spegnersi il cellulare può spesso creare imbarazzo. Ma ciò che è capitato a un detenuto cingalese ha davvero dell'incredibile. L'uomo di 58enne condannato per furto a 10 anni di prigione ha tentato girare il divieto per i detenuti di portare in cella il telefono cellulare nascondendo il telefonino nel retto. No. Poco prima della perquisizione da parte delle guardie che dovevano sequestrargli gli oggetti personali prima di rinchiudere nella prigione Welicada a Cotte, purtroppo nella fretta l'uomo ha dimenticato di togliere la suoneria. No. E qualcuno ha pensato bene di fargli una telefonata proprio, certo, in quel momento. Per vedere come reagiva l'anno. Sì, il telefonino ha iniziato a squillare e quando i poliziotti si sono resi conto che il detenuto aveva le tasche ormai completamente vuote, il malcapitato ha dovuto confessare la scomoda verità. Condotto all'ospedale di Colombo è stato subito sottoposto ad un esame radiografico che ha rivelato l'incredibile nascondiglio. Il telefonino è stato rimosso con intervento chirurgico e il 58enne, una volta ripreso, si è stato condotto in prigione senza cellulare. Resta ancora da sapere chi sia stato a fare quella telefonata. La fonte è Repubblica, quindi notizie abbastanza la fonte è Repubblica. Sì, ci sono anche le foto dell'ecografia del retto col cellulare infilato dentro. Ma se cadeva a terra, a culo a terra, questa persona, che gli succedeva? Non lo so. Mi sa che gli squillava l'esofago. Allora abbiamo invece un ospite che ci viene a trovare ogni settimana. La scorsa settimana non è potuto venire, sì, e quindi adesso ci sarà una bellissima razione di una ricetta, di un cibo. Ah, lo vado a chiamare, vado a chiamarlo. Vai a chiamarlo perché lui è un ex medico nutrizionista calabrese che ha causato la morte di un soggetto malato di ipertensione somministrando una ricetta della 'nduja calabrese. Credo che sia forse per citofonare qui fuori, vediamo. Sì, prego. Vado ad aprire la porta. Vai, Antonio, che è appena arrivato. E lui, ovviamente, Tony! Eccolo, sentite che Antonio chiama il nostro Tony. E, insomma, gira le varie radio di Italia per lavare l'onta di questo misfatto, portando qual è la bella cucina calabrese. Quindi invita tutti voi a prendere appunti sul piatto del giorno, il piatto della settimana. Quindi mi raccomando, carta e penna, registrate la puntata se potete, perché è con noi Tony Scopelliti. Non balli in studio, caro Tony. No, non posso continuare così. Caro Tony, abbiamo pochissimo tempo. Allora, da spero subito la ricetta per la sera. No, calmo. Caro Tony, intanto come sta? Sta bene. Ale, anche lei è il Sanremese. Sì, le passo Michelino. Pronto, Michelino, allora, come stai? Perfetto, andiamo su. Andiamo subito alla ricetta. Che ricetta ci porta stasera? Allora, credo che i nostri ospiti vogliono risentire. Michelino, saluta. Esatto. Stasera vi porti scaffettoni e cumarozzi. Con cosa sono? Scaffettoni e cumarozzi, rigatoni con le lumache. Rigatoni con le lumache. Sì, e te la sparo velocissimo in un minuto perché mi fa segnare. Carta e penna, mi raccomando. Carta e penna, tutto in mano. Sì. Vai, 50 lumache. Perché? Perché ci voglio 50. Ma per quanto dici l'uno, siamo 5, che lo fa per 10 due. Allora, poi abbiamo pancetta o guanciale. O un cuscino o la pancetta. Certo. Poi ci vuole mezzo chilo di cipolla rossa di gioia che la cade fa morire. Sì, quello lì. Vabbè, prezzemolo, finocchio, pepe, sale, origano e 5 kg di maccherone. 5 kg di maccherone. Esatto. Un chilo a testa e 5 lumache. Bravissimo. Purgate 10 lumache a testa e sì, 1 kg di maccherone. Purgate le lumache, quindi ci avete a dare tanto lassativo. Tanto lassativo. Esatto. Scottatele in acqua. in acqua. Ah, ma Barbie Girl. Acqua. Acqua. Pollacca. Perché sono acciua. E perché sono toscani. L'acqua. Acqua bollente. Allora, toglietele dal guscio. Tritate la pancetta o il cuscino. Se vostro marito ha bisogno del cuscino, uccidetelo. Soffriggetelo. Sono cose che capitano. Esatto. Soffriggetelo con olio d'oliva assieme alla cipolla affettata in un recipiente di coccio. Quindi aggiungete le lumache e dei pomodori pelati, quindi anziani. Cospargete di prezzemolo tritato e cuocete a lungo. Che è un, sì, altro ingrediente, un altro ingrediente. Proprio la lungo. La lungo è tutto va, unito. Va cotto, esatto, a parte. Sì, a parte poi leccate il rigatone. Lessate. Io leggo sempre mare. Tonino Carotone. Sì, il rigatone in abbondante acqua condito di sesamo e olio e spolverate con pecorino grattugiato. Andatevela tutta a prendere. Avete capito tutti, e soprattutto l'ultima parte di questa ricetta, mi raccomando, la lugo e l'acqua da tenere per questa ricetta, tenere pronti per questa ricetta. Io direi di farvi rimanere con noi dopo la pubblicità, perché continua l'onda in onda. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Thank you. eccoci qui, tornati in diretta. L'uomo dal colbacco, che poi non è colbacco, abbiamo detto, cioè diventa anche colbacco. Ma come si chiama questo copricapo? Cappello con le orecchie. Ma chissà. Ma chissà. Sai che verrà riesumata la salma di Pablo Neruda in Cile? Sì. E basta. No, è interessante perché vogliono scoprire le vere cause della morte. Hanno dei dubbi che... Sì, esatto, wow, vedi che hanno ogni tanto quando io faccio wow pensa che l'ho fatto partire lui. Sì, vogliono scoprire le vere cause della morte di Pablo Neruda, a quanto pare non sono chiare. Regista, se abbassi la canzone ti voglio dedicare un pezzo un attimo. Desnuda, eres tan simple como una de tus manos. Minima, lisa, redonda, trasparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda, eres delgada como el trigo desnudo. Così, ricordando il buon Pablo Neruda. Allora, dobbiamo chiamare Marco, è già ora di Marco? Sì, sì, fra un pochettino allora, chiameremo Marco, sì. Ma io direi che c'è tempo per una notizia di quelle che fanno ovviamente... scendi un attimo? Trepidare la popolazione. Leggilo tu, Antonio, perché è una di quelle che, insomma, essendo medico, potresti anche capire meglio. Corriere.it? Sì, sì, è vero, la fonte è il Corriere Bambina della serie. Diventa mamma. E sino a qui, bambina, dice, vabbè, bambina magari intende 12-13 anni. Ha 9 anni. E caccia al padre, 17enne, in fuga. Cioè, praticamente è una specie di storia ambientata nella casa di Barbie, dove però tutto è veramente folle. Bambina matriosca. Una bambina messicana di 9 anni ha dato alla luce una bimba nella città di Guadalajara, dalla quale tra l'altro sono passato velocemente nell'ovest del paese, in Messico. Il portavoce della polizia dello stato di Jalisco. Non hai notizie su Guadalajara? Guadalajara, che poi sembra una città toscana. Se prepara la canzone e vediamo se troviamo qualcosa su Guadalajara. Prepara il pezzo. Allora, il portavoce della polizia dello stato di Jalisco, Lino Gonzalez, parente di Speedy tra l'altro, ha fatto sapere che le autorità stanno cercando il presunto padre della neonata 17enne. Mi sembra tutto assurdo, però Gonzalez ha spiegato che la bambina ha partorito la settimana scorsa e che sia lei che la figlia stanno bene. Ora, boh, vabbè, io non ho parole. Comunque, la famiglia della neomamma ha avvertito le autorità dopo il parto dicendo che il presunto padre non è stato più visto nel quartiere in cui abita. Dico, mi sembra alquanto scioccante. 9 anni, dovrei andare a controllare se questa cosa, quante volte è accaduta nella storia. Senti, ce l'hai pronta quella cosa lì? Diciamo che può essere accaduto ogni volta, morte di papa. No, ogni dimissione ogni di papa, dimissione forse di per papa. Celestino V. Senti, vorrei dire qualcosa su Guadalajara, Alessandro, potresti? Guadalajara è una città del Messico centro-occidentale, capoluogo dello stato di Jalisco, situata a 1561,5 metri sopra il livello del mare. Ma 1,5 non c'era? Era per essere più precisi. L'agglomerato urbano che forma la metropoli conta circa 4,1 milioni di abitanti nel 2005, mentre la sola città ne conta 3,6 milioni. Michelino, vuoi dire qualcosa su questo? Ok, Guadalajara, nuovo lingua, diciamo, dei bambini. Vabbè, puoi chiudere, Bruma, va bene. Senti, Marco è già in linea, oppure spariamo un pezzo? Spariamo un pezzo. Ci spariamo e rimanete pezzo con noi perché c'è un film molto autopunitivo, dato che è la Domenica delle Ceneri. Delle Palme, delle oggi palme. È mercoledì delle Ceneri. Mercoledì delle Ceneri. La Domenica delle Ceneri. È la Domenica delle Ceneri. Sì. Oggi è domenica. Oggi è il mercoledì delle Ceneri. Oggi è il mercoledì delle Palme. Detto Domenica delle Ceneri? Non lo so, però noi sai cosa ti offro? Ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Danny California. La musica che preferisci. Radio Panorama. Panorama. Musica allo stato puro. She never knew that there was anything more. senti destinato alla dannazione eterna. Redimiti col film brutto della settimana. E abbiamo ancora una volta il piacere di avere in onda Marco, direttamente dalla Toscana. Ciao Marco! Grandissimo! Ma sei tu il grandissimo, come sempre. Come ciao, va? Ciao Marco, anche da parte mia. Senti Marco, com'è la temperatura lì in Toscania? Mette male, parecchio freddo qua, eh. Bello freddo. Qui, guarda, ha fatto freddo qui, figurati. Cioè, l'altro giorno delle ragazze rumene, non è che la Romania sia proprio il paese più caldo del mondo, mi hanno detto, qua veramente tanto freddo, speriamo passa. Cioè, la rumena che lo dice a un siciliano, cioè, io volevo... Umiliare, veramente, ho detto, ma dove è finito il paese, la regione del sole, l'isola del sole, del mare? Esatto. Incredibile, insomma, un po' di freddo lo fa anche qui. Ma perché la rumena già sapeva di doversi punire. Ah sì, è vero. E senti, allora, cosa consigliamo a tutti i rumeni, italiani o quelli che ci ascoltano da Vilnius? Abbiamo un amico che ci ascolta da Vilnius, dalla Lituania. Cosa consigliamo di guardare per questo mercoledì delle ceneri, detto anche domenica delle ceneri? Sì, domenica delle ceneri, Andrea, da me. Che è un cretino. Allora, cosa consigliamo di vedere, caro Marco? Ho scelto un film volutamente molto punitivo, insomma, certo. Questa giornata di contrizione. Eh sì, sì, oggi astinenza, sì. È Assassino al cimitero etrusco. Il titolo è veramente un film micidiale di Christian Plummer alias Sergio Martino, che giustamente si è nascosto dietro uno pseudonimo, certo. Immondizia, certo, se volevano cercare per picchiarlo non lo trovavano sull'elenco, insomma, è ovvio. Esattamente. Ed è un classico film horror all'italiana. Per classico intendo quelli in cui la maggior parte delle scene sono quasi al buio e non si vede quasi niente. No, sì, per non far vedere il trucco brutto. Esattamente, il che rende tutto veramente punitivo al massimo. La vicenda si svolge chiaramente in Toscana, visto che si parla, certo, di cimitero etrusco. Sì. A Populonia, per esattezza, c'è una signora americana che vuole scoprire che l'assassino del marito, che era un etruscologo di fama, che è stato ucciso subito dopo una telefonata in cui raccontava di aver scoperto chissà quali tesori. Poi chiaramente, diciamo, la vicenda non è che si dipani in maniera particolarmente brillante. Questa signora viene in contatto con alcune persone che erano appunto o collaboratori o amici del marito, e chiaramente queste persone cominciano a morire ad una, come avviene di solito in tutti i classici, certo, horror thriller all'italiana, con una mossa particolare, cioè praticamente si vedono le mani dell'assassino che arrivano da dietro e girano il collo di 180 gradi al malcapitato che muore immediatamente. La cosa più bella del film sono poi, diciamo, le quadrature dei cadaveri, sì, che sono vestiti al contrario per sembrare la testa sia rigirata. Certo, per fare credere che sia girata la testa, non avevano i soldi. Una genialata incredibile, veramente. Però bisogna dire che, insomma, avevano molta inventiva per, come si dice, fare tesoro di quel poco che si ha, di necessità virtù. Assolutamente, assolutamente. In questo, diciamo, che sono da stimare. Gli italiani sono sempre stati un po' maestri. Sì, insomma, sì, noi sappiamo arrabbattarci. Hanno sempre saputo dall'arte dell'arrangiarsi. Bravo. Insomma, bravo, brutto, bravo. Diciamo, e trasmette malessere comunque questa cosa, no? Assolutamente, veramente c'è una cosa punitiva al massimo, anche perché si ripete in maniera cadenzata per un'ora e mezzo, diciamo, diluendo il niente, insomma. Ma cioè, vedo su internet, ogni tanto c'è una scena così, insomma. Vedo su internet che il film è stato anche diffuso in altre lingue, addirittura credo in russo, Mezarlik Cinayeti si chiama. Beh, il vostro amico della Lituania potrà apprezzare magari anche sì, sì, sì, sì, sì. In cirillico, non so. E anche in tedesco col nome di Scorpion. Beh, non ha molto a che fare il titolo, devo dire, insomma. Scorpion detto, with two tails, cioè lo scorpione con due code, ma. Sì, è proprio uguale, sì. Esatto. Sì, è proprio quello. Vede proprio anche nel film. Molto attirente, sì, sì, immaginiamo, sì, sì. Ma ci sarà questo dubbio brutto, però in effetti il titolo Mezarlik Cinayeti è più brutto del sì, nostro. Sì, perché poi tra l'altro sembra Yeti, nel senso di proprio di il glue. Ti fa stare, sì, male. Marco, non credo si legga così comunque. No. Vabbè, immagino. Senti Marco, con cosa ci consigli di accompagnare la visione di questo film? E soprattutto se ci puoi dare una scena clou di questo film che lo rende veramente unico, autopunitivo. Ma guarda, più che scena clou, direi c'è un personaggio clou, che è un vecchio farneticante, sono una specie di Zufolo a due canne, che compare, diciamo, sì, in maniera incomprensibile, accompagna, diciamo, alcune scene del tutto inutili con la sua ancora più inutile diciamo nenia che suona con questo Zufolo, insomma, perché poi per il resto, diciamo, a parte qualche visione, qualche sogno che ha la protagonista con i soliti vermi messi lì, insomma, nella terra, che dovrebbero sembrare, insomma, lì mangiano i cadaveri, e un'assurda sparatoria all'interno della catacomba, che poi c'è una storia di droga dietro in cui la gente spara a caso, c'è tutto, droga, assassino, sì, morte. Sì, si butta un po' dentro di tutto, no? come sempre, per cercare di arrivare un po' alla durata minima di un film, insomma. Va bene, Marco, noi come sempre siamo a dir poco grati di questa domenica delle ceneri. Ma cosa accompagniamo, devi dire? Ah, cosa accompagniamo? Cosa mangiamo insieme alla visione, allora, di Assassino? Più che mangiare direi masticare, perché visto che il film è un po' una mattonata, diciamo, penso sia giusto accompagnarlo con una gomma da masticare portoghese che si chiama Trex Pina Colada. Trasmette dolore già. Esattamente, d'onore, perché, diciamo, dopo i primi due nanosecondi in cui si sente appunto un po' il sapore del cocco e dell'ananas, la gomma si trasforma praticamente in un condensato di cemento armato che voi dovete cercare di riuscire a masticare per il maggior tempo possibile. Cosa impossibile. Ma cosa si vince? Cosa si vince? Perché per convincere le persone a masticare? Una visita dal dentista, oppure da un chirurgo massofacciale. Sì, perfetto, bravissimo, bravissimo. Va bene, Marco, noi che dirti? Ti ringraziamo come sempre per la tua assidua e graditissima presenza. Ricordiamo il film Assassino al cimitero etrusco, quindi cercatelo, trovatelo e guardatelo. Del grandissimo Sergio Martino, sotto pseudonimo di Christian Plummer. Noi ti ringraziamo per essere stato ancora una volta qui con noi agli microfoni di Radio Panorama con l'Onda in Onda, e ci ascoltiamo i grandissimi Muse con Starlight. Ciao Marco! Ciao! Ciao ragazzi, ciao! Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica, la tua radio. Panorama. facile, sempre con l'onda in onda. Mancano pochissimi minuti, dobbiamo finire la nostra classifica di 10 momenti in cui non mangiamo come se non ci fosse un domani. Rifacciamo un excursus della nostra classifica dalla posizione numero 10. Vai Antonio. Te lo faccio un po' come il giornale fascista. Decimo posto la domenica con i parenti. Al nono il giorno che precede una dieta. All'ottavo sushi a prezzo fisso, all you can eat. Al settimo mangiare biscotti a metà. Al sesto posto quando ti fidanzi. Al quinto il grignatone con gli amici. Al quarto posto il post corsa. E poi il podio. Al terzo posto abbiamo lo spuntino notturno. Per chi se la fosse persa, a questo evento mitico capace di distruggere in pochi minuti settimane di dieta abbiamo dedicato una classifica musicale che magari faremo la prossima volta, sì, ma in realtà sì. No, perché è della serie non resistere, non resistere, non resistere. No, non ce la fai a resistere. Andiamo alla posizione numero 2, quindi ci avviciniamo. Lui è pronto, già il regista col rullo di tamburi, per la posizione numero 1. La fame chimica, in alcol e in botta. Il sabato notte dentro il nostro stomaco può entrare nel giro di qualche minuto un panino più stelecrauto e una brioche al cioccolato, anche in ordine inverso. Rimane uno dei più grossi piaceri della vita. Il nostro regista vedo che ne sa molto della fame chimica e siamo pronti per la posizione numero 1. Rullo i tamburi. In cui mangiamo come se non ci fosse un domani e abbiamo l'aperitivo. Yes, Facebook Docet. Oltrepassare la fisica capacità di carico del piattino dell'aperitivo. Fanculo. Con quello che si fanno pagare uno sprizzo, una media, il minimo è trasformarsi in predoni. Ovviamente affamati. Quindi l'aperitivo è quello che rovina di più. E un applauso per quella che era la classifica dei 10 momenti in cui mangiamo come se non ci fosse un domani. E invece c'è un domani e c'è anche un fra poco, perché subito dopo di noi Super Hit e poi a seguire Emilia e Marcella con Carta Straccia. Sì, ricordiamo appuntamento di Positive Vibration alle 21.30 fino alle 22.30, alle 23.30, scusate. Due ore. Sì, 23.30, quindi rimanete con noi per la lunga notte di Radio Panorama, perché poi in replica ci saremo noi a mezzanotte, sì. Quindi per chi si fosse perso la puntata, volesse riascoltarla, a mezzanotte di oggi ci sarà la replica, non sarà più il mercoledì delle ceneri, sarà già domenica delle ceneri. Esatto, semmai il giovedì delle fiamme. O il giovedì delle fiamme o il giovedì delle palme. Il giovedì delle palme. Che sarebbe sì. Anche qui. È carino il giovedì delle palme. Il giovedì delle palme. Molto carino. Va bene, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, sempre con l'onda in onda Radio Panorama, e come sempre lui era Andrea, lui era Antonio e di là c'è Brumba. Noi vi ringraziamo e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Buonanotte da Radio Panorama. Sometimes